9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 11 dicembre da Oscar Giannino. Grazie a tutti coloro innanzitutto che ieri mi hanno mandato molte mail, molti sms, e soprattutto ho tentato di rispondere a tutti. Lo dico perché il tema di ieri, nucleare, ci ha convinto, se continuerò qui, a fare altra puntata sul nucleare, perché molte mail, molte lettere da parte di voi ascoltatori hanno avuto l'impressione di una trasmissione squilibrata. Io ho risposto a tutti, perché c'è chi mi ha contestato per esempio i dati che abbiamo dato ieri all'inizio della trasmissione. C'è chi ha detto: ma come, dice, l'85% delle dipendenze energetiche, noi importiamo solo il 16% di energia elettrica. Sì, quella è quella che importiamo dalla Francia nucleare, ma se facciamo la somma del totale del mix energetico nazionale siamo dipendenti dall'85%. Comunque, siccome le scelte che bisognerà fare nei prossimi mesi sul nucleare sono molto rilevanti, hanno un impatto molto forte sul presente e sul futuro del nostro paese, e soprattutto, come abbiamo visto dalle reazioni, sollecitano una grande richiesta di dati seri, attendibili e un grande confronto tra punti di vista diversi, ne organizzeremo altre e diverse le trasmissioni, sempre partendo dal punto di vista che si tratta di cose che bisogna conoscere con un minimo di serietà prima di emettere poi patenti di scomunica. Oggi di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo della crisi greca, della finanza pubblica greca, che accende un allarme dopo un anno della crisi, quando dall'estate sembrava che la ripresa del commercio mondiale e della produzione, o meglio, il rallentamento dei ritmi di caduta, ecco, facessero pensare che il peggio era alle spalle. Ecco che nelle ultime due settimane, e soprattutto dall'inizio di questa settimana, da lunedì, il debito pubblico greco, il deficit pubblico, che quest'anno in Grecia si chiuderà quasi al 13% del PIL, e con l'attesa che senza interventi correttivi molto energici vada comunque oltre il 10% del PIL anche l'anno prossimo, e quindi un debito pubblico che supererebbe a quel punto il 135% del PIL greco, ecco, è diventata improvvisamente sui mercati una febbre molto forte. Mentre abbiamo vissuto questo anno dopo Lehman Brothers nella convinzione che l'appartenenza all'euro fosse una specie di scudo, una garanzia collettiva per tutti i membri, Italia per prima ovviamente, che ha un debito pubblico importante, superiore al 100% del PIL, scopriamo che non è così, perché gli andamenti diversi del deficit vengono sanzionati dai mercati, e quindi abbiamo assistito al fatto che in due sole settimane lo spread, il differenziale, cioè sui titoli decennali del debito pubblico greco rispetto a quelli di riferimento dell'euroarea, cioè i bund tedeschi, è salito da poco meno di 200 a oltre 250 punti base. E i CDS, cioè il credit default swap, cosa sono? Sono il premio che il mercato attribuisce al rischio di fallimento del debito sovrano greco, sono schizzati improvvisamente verso l'alto. Pensate che questa credit default swap sui titoli del debito pubblico greco a due anni di scadenza sono aumentati di 138 punti base in due settimane, e nel frattempo, mentre questo avveniva in questi giorni alle nostre spalle, il mercato ha iniziato a punire in maniera differenziata ma molto evidente le esposizioni del debito pubblico e i deficit pubblici diversamente in via di accrescimento dei diversi membri dell'Unione Europea e dell'euroarea, con ritmi sconosciuti nei mesi a nostre spalle. Quindi, mentre la Grecia peggiorava i suoi CDS biennali di 138 punti, l'Irlanda, che ha un altro debito pubblico molto importante e deficit molto elevato, dal 10% quest'anno il debito pubblico irlandese del 73%, aumentava di 22 punti, la Spagna di 11 punti. L'Italia in questo non è al centro di questa nuova febbre di instabilità. L'Italia quest'anno avrà un deficit pubblico di poco superiore al 5%, di cui il 3% per rispettare Maastricht, ma insomma fa parte dei nostri conti, e poco meno o poco più di 2 punti percentuali di PIL aggiuntivi per effetto della crisi. Quindi, rispetto ai paesi che stanno facendo deficit pubblici aggiuntivi molto molto più rilevanti, l'Italia ha il freno tirato, per così dire, e per questo interviene meno da una parte a sostegno della domanda e dell'offerta del mercato domestico, ma così facendo si vede nella crisi aperta dal debito greco in questi giorni, che si espone meno al rischio che i mercati la considerano in possibile default. Ecco, adesso con i nostri ospiti ci porremo diversi aspetti di questa crisi, perché qui c'è una domanda che comunque investe tutti i paesi dell'euroarea diversamente esposti. Ci sono trovate oggi i dati sulle valutazioni delle esposizioni del nostro sistema bancario rispetto a quello renano sui titoli del debito pubblico greco. Troverete che noi siamo poco esposti, siamo intorno ai 6 miliardi di euro complessivamente, mentre quasi 200 miliardi di euro è la somma delle esposizioni delle istituzioni bancarie franco-tedesche, e questo ha la sua importanza perché ovviamente i titoli del debito pubblico vengono usati dalla Banca Centrale Europea come collaterali per le operazioni di rifinanziamento del sistema bancario europeo. Voi capite che dopo il downgrading, cioè l'abbassamento del rating di fiducia dal debito pubblico greco che c'è stato a inizio settimana, e con la minaccia che Fitch e Standard & Poor's procederanno a un nuovo downgrading, a quel punto col nuovo downgrading i titoli del debito pubblico greco non sarebbero, con le regole attuali, più accettabili dalla Banca Centrale Europea come collaterale per l'operazione di repos, cioè di rifinanziamento delle banche dell'euroarea. In quel caso quindi quei quasi 200 miliardi di esposizione delle banche, sommando Francia, Germania e Benelux, significherebbero perdite secche per quelle banche, mentre le banche italiane su questo sono state più prudenti. C'è un aspetto di questo tipo che quindi riguarda tutti, ma c'è un aspetto che riguarda inevitabilmente l'Europa in quanto tale. Il trattato non prevede meccanismi di uscita governati con regole dichiarate ex ante, e quando si creano condizioni di questo tipo la domanda ai vertici europei diventa: ma non è che dobbiamo darci procedure speciali per disciplinare sia il salvataggio di paesi dell'euroarea a rischio, sia la modalità di intervento collettiva e non più secondo la regola che ciascuno risponde del proprio debito, che è stata la regola che i tedeschi fino a questo momento hanno fatto seguire a tutti? Ecco, queste sono le domande. Fine dell'introduzione. Ora presentiamo i nostri ospiti di oggi. Innanzitutto abbiamo la professoressa Fiorella Costoris, che insegna economia alla Sapienza. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo con noi il professor Franco Mosconi, che insegna economia industriale all'Università di Parma. Buongiorno professore. Buongiorno. E Tobias Piller, che è il corrispondente della Frankfurter Allgemeine. Buongiorno Tobias. Buongiorno. Allora, iniziamo dall'aspetto europeo con Fiorella Costoris. I leader europei ieri, dopo un giorno di allarme, hanno detto: ma tutto sommato la Grecia prenderà impegni, non dico che business as usual, ma quasi, dopo però giorni di paura seria. Dal suo punto di vista, questo allarme non ci obbligherebbe invece ad adottare procedure e decisioni diverse, condivise? Dunque, innanzitutto ringrazio per dare al mio cognome oggi un connotato greco, perché il mio cognome in realtà in Italia si pronuncia Costoris, ma forse in Grecia Costoris, come dice Giannino. Direi questo, che ha ragione quando sostiene che l'andamento differenziale dei deficit è sanzionato dai mercati e anche dalle società di rating, dai mercati per esempio con lo spread fra i titoli pubblici del paese colpito, in questo caso la Grecia rispetto non so, al Bund tedesco, e dalle società di rating, nel caso Fitch e d'obbligo. Però è anche vero che esiste una protezione che viene data dall'euro, le due cose non sono una in alternativa all'altra, e la protezione è di varia natura. Innanzitutto sta nei fatti che nel fatto che in questo caso la Grecia, se fosse fuori dall'euro, comincerebbe e sarebbe già cominciata a entrare in una spirale di inflazione e svalutazione da cui sarebbe difficile uscire. D'altra parte la Banca Centrale Europea starà attenta prima di aumentare i requirements per il cambio per la garanzia che viene data sui titoli pubblici nel mettere liquidità alle banche. La stessa signora Merkel ha dichiarato esplicitamente di che esistendo una moneta unica bisogna avere anche una responsabilità comune, quindi esiste una protezione. I leader europei hanno detto, non hanno detto secondo me business as usual, ma sia i politici che la Banca Centrale Europea hanno chiesto di intervenire in tempi brevi, e mi pare di aver capito che il Premier Papandreou ha deciso di anticipare una serie di misure che erano previste invece tra circa un mese, misure che sono riportate sui giornali come le privatizzazioni, il blocco dei salari pubblici, la riforma delle pensioni in particolare. Ora, alcune di queste misure servono proprio a fare cassa, lo sappiamo noi, le privatizzazioni senza liberalizzazioni non aiutano la crescita e a lungo andare il problema dei deficit e dei debiti si cura con quella. Il blocco dei salari pubblici è ovvio che può essere fatto, se verrà accettato non sappiamo, può essere fatto soltanto a brevissimo termine. La riforma delle pensioni invece dipenderà da come si realizza, ma insomma ha un orizzonte e un impatto sulla sostenibilità dei deficit, del debito pubblico molto, molto maggiore. Quindi credo che il discorso sia un po' più complesso che semplicemente dire i leader europei sembrano orientati ad accettare un po' il business as usual dopo la grande mareggiata dei giorni scorsi. La domanda deriva anche un po' dall'esperienza che il partner greco ci ha dato, naturalmente semplificando, mentre i socialisti che hanno vinto le elezioni da poco in Grecia e si trovano oltretutto con forte manifestazione nelle strade, annunciavano fino a martedì di questa settimana una diminuzione del deficit tendenziale solo dal 13 al 10% del PIL. Adesso, dopo le pressioni che lei giustamente ha appena richiamato, l'impegno sarebbe di anticipare a martedì prossimo addirittura tagli del deficit tendenziale pari a 9 punti del PIL, insomma un capovolgimento di orizzonte. Detto tutto questo, però, i greci, come sa chi ha seguito le cronache Eurostat eccetera eccetera, ci hanno abituato nel recente passato anche a decisioni di questo tipo che magari anni dopo abbiamo scoperto che avvenivano con qualche leggerezza contabile, ecco. Arrotondamento statistico, diciamo così. Ma non sono i soli, naturalmente, sappiamo bene che molti altri paesi, anche più vicini a noi della Grecia, fanno arrotondamenti, escono nel momento in cui escono i dati sul deficit pubblico permanentemente sotto al 3%, nella prima release e poi alla quinta, diciamo, diventiamo per esempio noi italiani capaci come i francesi di dare numeri più corretti e più significativi, e allora si vede che dal 2001 a oggi soltanto in 2 anni siamo stati di fatto sotto al 3%, ma nella prima release statistica apparivamo quasi sempre sotto. Ora, vediamo in parallelo, insieme alla riflessione dell'Europa che teniamo per tutta la trasmissione, teniamone un'altra che riguarda l'economia reale col professor Mosconi. Seguendo la regola che si è data in realtà l'Unione Europea, per la quale ciascuno risponde del proprio debito pubblico e ciascuno quindi può fare manovre all'interno dei vincoli, nel rispetto, certo ci sono gli stabilizzatori automatici per l'aggiunta di deficit dovuto alla minor crescita economica, alla minore entrata e così via, ma in realtà la regola che i tedeschi hanno imposto fin dall'inizio è stata, signori, nessuno strumento realmente condiviso, cioè non abbiamo un bilancio condiviso, quindi ogni paese si muova nell'ambito di quello che ha accumulato storicamente e dei limiti che altrimenti il mercato, come capita oggi con il caso greco, sanzionerà. Questo tipo di impostazione significa naturalmente che ciascun paese finisce per dipendere nella ripresa dell'economia per la parte di sostegno pubblico aggiuntiva possibile più dagli interventi che fanno coloro che hanno maggior margine per farli piuttosto che per quelli che può fare in proprio. Esattamente il caso italiano è proprio questo. Allora, questo sul meccanismo di crescita dell'Unione Europea e della nostra crescita nazionale rispetto alla specificità della nostra tipologia produttiva, a quanto esportiamo internamente all'area euro eccetera eccetera, ecco, a un anno di distanza da Lehman Brothers si può capire bene, tentare di semplificare, che effetto ha avuto questo vincolo diversificato che è contestuale al fatto che l'Unione Europea, secondo me, da questa crisi esce con un problema politico aperto di non avere appunto uno strumento di intervento condiviso, neanche per regole di emergenza, per evitare casi come quelli greci, perché la verità è che non ce l'avremmo quelle regole per gestire l'emergenza. Dobbiamo solo sperare attraverso la pressione politica che non si arrivi all'emergenza. Ma l'effetto concreto sulle nostre esportazioni, sui nostri distretti, che si vede dopo un anno, qual è? Che molti dei distretti che sono il vanto della manifattura italiana, prendiamo a tutto il sistema della meccanica, che è quella con le componenti tecnologiche più spiccate, molti di questi settori o sistemi di produzione locale chiuderanno il 2009 con meno 30%, in alcuni casi forse anche qualcosa di più. E quindi tutta la sua analisi sulla mancanza di coordinamento sovranazionale per rifar partire la crescita, e che poi già accennava la professoressa, è verissimo. Noi abbiamo un'economia fortemente orientata alle esportazioni, regioni come Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto esportano molto, hanno un grado di apertura superiore al 30%, ma esportiamo circa il 60% dei nostri beni entro i confini europei. Il crollo del commercio internazionale ci ha colpiti dritti al cuore, e questo è il motivo, uno dei motivi del calo molto consistente del PIL. Allora torna fuori, io sono d'accordo che c'è un problema politico, e speriamo che le dichiarazioni di ieri della signora Merkel, oggi messe in bella evidenza sul Sole 24 Ore, siano il primo passo in quella direzione. Torniamo al famoso discorso di cui un punto di riferimento di tutta il presidente Ciampi ha fatto da tempi insospettabili, quando appunto diceva: abbiamo costruito la gamba monetaria dell'Unione Economica Europea, dovremmo costruire anche l'altra gamba, quella di politiche economiche condivise a livello sovranazionale, e questo a sua volta implicherebbe una profonda riforma del budget dell'Unione Europea, che non ha ovviamente. Ecco, quindi per concludere, credo che la ripresa della nostra economia reale deve volgere lo sguardo alle nuove, mi si passi l'espressione, vie della seta, nel senso che il 2010 dovrebbe portare la buona novella di una ripresa forte sia del PIL già in essere che del commercio generato dai paesi asiatici della sponda sud del Mediterraneo, di certi paesi dell'America Latina. E allora è un'economia vocata all'estero e che produce delle belle cose come l'Italia, la crescita credo debba tornare da lì. Questo implica un cambiamento nelle strategie di impresa, ma insomma, certo. Intanto volgiamo lo sguardo in quella direzione là. Ora, domanda per Tobias Spiller. Ieri, salutando il presidente Romano Prodi, che è in Cina, e facendo qualche chiacchiera esattamente sulle considerazioni alla quale lo induceva questa crisi greca, mi chiedevo l'opinione intorno a una specie di bilancio di questo anno di politica, io dico imposta, ma è una semplificazione giornalistica, diciamo fortemente e calorosamente richiesta dalla Germania come paese leader importante dell'Unione Europea sin dall'inizio del manifestarsi della crisi, cioè il fatto che ognuno per sé, a seconda della propria virtù nella finanza pubblica. E l'impressione del professor Prodi era tutto sommato: ma i tedeschi non va tanto male, perché in questo modo riescono a cinturarsi, a cautelarsi dal rischio di contagio che può venire da finanze pubbliche meno solide, anche di paesi tipo la Ungheria, la Romania, insomma, di cui non possiamo essere davvero tanto certi su quello che c'è nei conti pubblici. E per il resto invece il polmone, il cuore franco tedesco è più fortemente in grado di indirizzare quel po' di cose condivise che ci sono, tutelando insieme, nel caso tedesco, le aree in cui la Germania ha più delocalizzato nella propria frontiera est europea, con interventi congiunti di bilanciamento e così via. E questo bilancio, questa impressione che riferisco un po' impropriamente, ma insomma, ieri parlandone con Prodi mi sembrava interessante interessante molto questo suo punto di vista. Nella politica tedesca è condiviso, cioè la Germania si è battuta proprio per difendere il proprio spazio di influenza a spese di uno strumento condiviso. Eccoci tornati in studio, ci eravamo interrotti su una domanda a Tobias Piller sulla politica tedesca in questo anno, diciamo un po' forse molto centrata, come è giusto, sul timore che gli interessi tedeschi non venissero lesi da quelli dei meno virtuosi in questo anno. Io ho dovuto ridere un pochino perché mi sembra un po' tipico per qualche italiano questo modo di fare scenari machiavelliani sui interessi dei tedeschi. Ricordiamoci quale era la ragione della nascita della moneta unica. C'erano due così. I francesi hanno chiesto ai tedeschi di abdicare al governo della Marco per consentire dall'altro lato la unificazione tedesca, e Helmut Kohl ha visto nel progetto della moneta unica un progetto che potesse essere un passo per la unificazione europea. Così non vedo altre storie dietro in questo. No, ma contemporaneamente l'euro era anche una maniera di farci, insomma, legittimamente, ma compartecipare ai costi dell'unificazione tedesca. Ah, assolutamente no, perché i paesi europei hanno approfittato molto, esportando molto in Germania in questi anni di crescita tedesca e di crescita del consumo tedesco. Così evidentemente i costi sono lì sul bilancio pubblico tedesco. In quel senso, stacchiamoci da tutto questo, certo. Se l'euro è un modo di proteggere paesi piccoli da questa spirale deleteria tra svalutazione e inflazione alta, dalla quale poi si esce solo con grandi difficoltà, la domanda certamente era: perché non costruire un'Europa e anche far accedere paesi dell'Europa dell'Est che appena più di 10 anni fa sono usciti da questa zona dietro il muro? E certamente in quel senso l'euro è una grande protezione, perché mi ricordo bene come mi è stato detto una volta in una banca centrale di una isola del Mediterraneo, quando hanno detto: da quando siamo nell'euro qua nella banca centrale possiamo dormire in modo più tranquillo, perché prima eravamo esposti a qualsiasi attacco dal mercato finanziario, per quanto potevamo essere solidi. Certamente se un Soros decide di attaccare Malta o Cipro, certamente non c'è via d'uscita per loro. Nell'euro invece c'è. Certamente se tutti i paesi, ma se c'è metà dei paesi europei prende la malattia della Grecia, si risente anche sul valore dell'euro, sui tassi di interesse all'interno, sui tassi di interesse che vengono chiesti da fuori, e si svaluta anche l'euro, e tutti i problemi abbiamo poi tutti in comune. Ma dall'altro lato non possiamo uno pagare il debito dell'altro, perché questo crea una cosa, la irresponsabilità. Ma viene premiato è quello che mangia di più velocemente e che si indebita di più, e alla fine il conto lo pagheremo tutto insieme. Così non può essere questa una soluzione. Certamente, naturalmente la strada di continuare a tenere i debiti divisi è una strada che ha conseguenze politiche, come Piller sa bene, cioè le sovranità condivise sono da sempre collegate nella storia a dei debiti pubblici condivisi. Gli Stati Uniti nascono quando si mettono insieme i debiti delle 13 colonie, e di lì nasce la prima idea di una banca centrale, nasce attraverso l'organizzazione di un mercato del debito pubblico di cui c'è un garante federale a nome di tutti. Quando questo non c'è, ovviamente vuol dire che non c'è una politica. Allora la domanda che faccio ad Adriana Cerretelli, corrispondente del Sole 24 Ore e maestra per noi tutti da anni di quello che avviene a Bruxelles, è questa. 15 anni fa maestri scettici, diciamo così, del monetarismo, dell'offertismo americano, dicevano, ammonendo gli europei, si trattava di Milton Friedman, di Martin Falstein, dicevano: guardate che assumere una moneta comune senza avere forme poi condivise di politica, bilancio condiviso, significherà alla prima seria grande crisi rendersi conto che esistono grandi rischi. La domanda che faccio a Adriana Cerretelli, oltre che chiedendole quali sviluppi oggi, dopo l'appello della Merkel, un appello di garanzia per così dire in soccorso della Grecia di ieri, e se non siamo con la crisi greca di fronte proprio all'inveramento di quella specie di predizione. L'euro da solo senza strumenti di politica fiscale, di bilancio condivisi, basta, Adriana? No, assolutamente non basta. E devo dire però che l'Europa torpidamente se ne rende conto a poco e forse a poco comincia a fare dei passi avanti. E lo dico perché, diciamo lentamente, senza dichiararlo, diciamo coram populo, però ci si sta muovendo esattamente nel senso di rafforzare il coordinamento non solo delle politiche di bilancio ma anche delle politiche economiche. E mi spiego, proprio ieri la Merkel in una riunione a porte chiuse ha detto chiaramente dobbiamo trovare il sistema di imporre ai parlamenti nazionali le riforme sociali, pensionistiche eccetera che sono necessarie quando un problema di uno Stato membro pone un problema all'intera area euro. E questo è il caso della Grecia, ma un domani ci possono essere altri casi, tipo per esempio quello della Spagna, che molti temono possa diventare un caso acuto nei prossimi mesi. E comunque ce ne saranno altri, perché la concorrenza sul mercato delle emissioni con gli iperdebiti accumulati creerà dei problemi più o meno dovunque, soprattutto nei paesi più deboli, non escluso manco il nostro. Quindi diciamo lentamente si sta andando in questa direzione. Stamattina appunto in una conversazione dove c'era anche il Presidente della Commissione Barroso si diceva proprio questo, che quello che 5 anni fa era assolutamente inaccettabile, cioè che l'Europa mettesse il becco nelle politiche economiche e nelle politiche di bilancio nazionali, oramai con la globalizzazione e la crisi finanziaria diciamo non è più un tabù. Quanto tempo ci vorrà non si sa, però certamente le crisi sono degli acceleratori in Europa e quindi la crisi greca io penso che potrebbe far fare un salto in avanti sotto questo aspetto. Una domanda a Fiorella, chiedo scusa per l'accento, non volevo farla sembrare responsabile della crisi greca, quindi costo. No, ma la domanda è, l'Italia ha una certa esperienza invece, per così dire, vista la sua scarsa virtuosità pluridecennale con i conti pubblici rispetto a questo tipo di confronto con Bruxelles. Nella sua esperienza, visto che segue le vicende europee da molti anni, abbiamo superato, non tanto in Italia, ma nei paesi come la Grecia e soprattutto nei paesi nuovi entranti da est, abbiamo superato quelle classiche manifestazioni che in Italia spesso avvenivano, cioè questa specie di flessione di muscoli di sovranità nazionale che anche la Grecia, fino a ieri, i politici greci del nuovo governo di socialista sembravano reagire esattamente come facevano gli italiani un tempo, dicendo ah come, qui è una questione di sovranità nazionale, il nostro paese non si farà dettare da... Ecco, che è lo spirito sbagliato, perché si finisce dritti alla crisi se si ha quel tipo di risposta. C'è più nei paesi deboli, c'è più consapevolezza o c'è anche molto senso di fatica di fronte al duro prezzo della crisi per non potersi permettere di più quello che i grandi paesi europei si possono permettere in spesa pubblica aggiuntiva in questo anno? Ma a me sembra che quello che spiega in alcuni paesi la incapacità di accettare il rigore che in genere Bruxelles ci chiede, ma prima ci chiedevano con le lettere d'intenti il Fondo Monetario Internazionale ed altri, dipende strettamente dalle condizioni sociali del paese. Ecco, io credo che la gravità della crisi greca non si descrive soltanto guardando all'andamento del deficit e del debito pubblico, che pure sono esplosivi, ma bisogna anche guardare per esempio al fatto che è un paese in ebollizione sul piano sociale e non potrebbe non essere così con un tasso di disoccupazione che supera già oggi il 19%. L'Italia al confronto ha un debito pubblico più grande, un deficit pubblico che diciamo, nel 2009 sarà più piccolo, ma si calcola che nel 2014 più o meno saremo i calcoli vengono dal Fondo Monetario più o meno agli stessi livelli, sappiamo che avremo una situazione per cui il bilancio primario dovrà essere in surplus nettamente superiore al 5%, più vicino al 6% sia in Grecia che in Italia per riportare il debito su un sentiero di sostenibilità. La grande differenza, a me sembra, e appare una differenza di capacità di accettare il rigore, ma in realtà è una differenza di struttura sociale in questo momento, il nostro paese è più tranquillo e la sostanza è che è più tranquillo perché ha un tasso di disoccupazione oggi apparentemente dalle statistiche sotto il 7%. Diciamo che i dati previsivi ci fanno capire che nella media di quest'anno saremo all'8-8,5% nel tasso di disoccupazione, è pur sempre meno della metà di quello greco. La Spagna, giustamente diceva la Cerretelli, potrebbe avviarsi in una situazione ugualmente preoccupante per una serie di motivi, incluso il fatto che la sua disoccupazione, che era fortemente scesa, in particolare a cominciare da Aznar, sta riprendendo rapidamente quota purtroppo. Insomma, questi fatti sociali spiegano come si esprima il movimento studentesco, come si facciano gli scioperi, quasi che lo sciopero potesse servire a riportare il paese in sviluppo. Non è così, ma denuncia una profonda malattia sociale. Allora, la domanda al professor Mosconi. Io capisco, accettiamo quindi che dopo un anno mi pare che il verdetto più o meno convergente sia che è inutile immaginare salti in avanti verso un'Europa che non c'è. Faticosamente, ci dice Adriana Cerretelli, comunque anche queste crisi servono ad acquisire maggior consapevolezza e a fare comunque passi avanti verso strumenti condivisi, anche se siamo ancora alla reciproca influenza più che agli strumenti condivisi. Ma la domanda è, facciamo un esempio concreto, quello del mercato dell'auto. Tutti i paesi più o meno hanno varato incentivi, probabilmente lo faranno anche per l'anno prossimo. Dice Marchionne, mi sembra un'osservazione ragionevole, in America è vero, enorme cosa di capitali pubblici, 15 miliardi a Chrysler, oltre 50 a GM, però lì si fa un grande intervento di razionalizzazione rispetto alla sovraccapacità. In Europa fate gli interventi, tutti ciascuno diviso, e ogni governo si illude nel difendere poi gli stabilimenti che ha, quindi il risultato non si interviene razionalizzando, producendo meglio e quindi intervenendo sulla sovraccapacità. Allora, che senso ha non intervenire neanche anche nelle cose che si fa tutti insieme con criteri più o meno convergenti e quindi tentando di spiazzarsi a vicenda? Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando della crisi greca. Nel frattempo ora do la parola al professor Mosconi. È uscito, l'agenzia ha battuto un sondaggio che dà ragione a quello che stava dicendo prima Fiorella Costoris, perché questo sondaggio attesta che quasi la metà, il 49% degli intervistati, stiamo parlando di un sondaggio realizzato dall'istituto MRB per la rete televisiva Mega, quasi il 49% dei greci intervistati dichiara dell'opinione che il governo socialista non sarà in grado di ottemperare alle nuove severe richieste avanzate ieri dall'Unione Europea. È un sondaggio che conferma il sostegno al PASOK, quindi al Partito Socialista di Giorgio Papandreou, ed è molto forte la preoccupazione che la Grecia non solo inottemperi alle richieste di maggior severità sul deficit, ma che finisca in default, perché più di un greco su tre in questo sondaggio dice che deve tenere comunque probabile questo esito. Allora, professor Mosconi, parlavamo del fatto che non si riesce a far convergere nemmeno interventi in settori in cui tutti i grandi paesi poi finiscono per assumerli, ma con modalità tali da spiazzarsi a vicenda invece che da renderli sinergici. Non è un caso che nei giorni caldissimi della crisi e quindi dei piani per il settore automobilistico, tanto per non fare nomi, sia stato evocato un esempio eccellente di politiche comunitarie che ha ormai 25 o 30 anni, e il riferimento va al piano per la siderurgia dell'allora commissario Visconte Etienne d'Avignon, quando grazie a quel piano fu trovata una soluzione ragionevole per superare un eccesso di capacità produttiva che c'era nella produzione di acciaio. Ora, 25-30 anni dopo, non è un caso che molte personalità di spicco europee abbiano detto nei giorni dei piani nazionali per l'automobile: ma perché non riproduciamo il metodo allora voluto e portato avanti da Étienne d'Avignon. Ecco, questa è stata un'altra delle occasioni mancate, ma vorrei dire che ha, al di là dell'aspetto simbolico come politica europea, anche, c'è anche un aspetto che va dritto al cuore del capitalismo europeo, perché se i grandi paesi continuano a fare queste nuove politiche industriali, ognuno per conto suo, corriamo il rischio di disperdere una delle grandi risorse dell'Europa, che credo sia la risorsa che ha comunque fatto assorbire all'Europa la crisi con danni sì elevati, ma insomma non è andato tutto a quarte 48, che è la sua base manifatturiera. Allora, per tornare alla Grecia, voglio dire, se quando la professoressa Costoris diceva giustamente guardiamo sotto la superficie, non limitiamoci a guardare solo i dati di bilancio, di debito e di deficit. Ecco, le cose in Grecia diventeranno difficili perché ha una struttura economica molto fragile, esempio. Ha un PIL di quasi 240 miliardi, dalla manifattura ne arrivano 20-22, circa il 10%. Allora, i grandi paesi europei, la Germania e la Francia, che sono i due più grandi manifatturieri d'Europa, ma anche la Francia, l'Olanda, un po' tutto il Benelux, la Scandinavia, hanno questa grande risorsa che è una forza nell'economia reale, che proprio per la globalizzazione dei mercati richiederebbe lungimiranti politiche industriali comuni, come a Bruxelles dovrebbe andare una quota sempre più ampia della ricerca scientifica che si deve fare in comune. Siamo invece ancora a discutere sulle lingue per il brevetto europeo, ecco. Sì, è un po' questa la situazione. Allora, abbiamo 3 minuti, quindi un minuto e mezzo, prima per Tobias Piller e poi conclusivamente con Adriana Cerretelli. La domanda per Piller è molto semplice. Sulla manifattura, il coordinamento degli interventi su questo, la situazione vista dal punto di vista della Germania, del cittadino tedesco, del produttore tedesco, dal Mittelstand tedesco, il bilancio di quello che ha fatto in maniera condivisa assai poco l'Europa, di quello che invece si può permettere la Germania dopo un anno di crisi, qual è? Un bilancio positivo o meno? La Germania si è dato dei obiettivi ambiziosi di ridurre il deficit a zero entro qualche anno, e questo è un problema per il nuovo governo. Anche c'è un governo più liberale che si è staccato un po' dalla visione dei sussidi per l'auto, per esempio. In quel senso io vedo tanta una corsa di nuove intervenzioni. Sul mercato dell'auto decide il consumatore, e poi c'è anche una politica sociale che cerca di ammortizzare un po' le conseguenze. Ma ci sono tanti che vorrebbero una coalizione europea per spendere un po' di più, e poi dall'altro i sindacati che vorrebbero ancora posti pubblici per tutti e soldi pubblici per tutti. E questo è un modo deleterio di fare una cosiddetta politica per la crescita. Io penso invece che bisogna prendere qualche medicina amara. In Italia è chiara, c'è un'amministrazione pubblica, se non funziona nessuno ci investe, se i costi di giudizio non funzionano tutti scappano, i stranieri almeno. Se non si investe a lungo termine nel turismo, certamente i turisti vanno da un'altra parte, e queste sono lì ci sono delle politiche a lungo termine e ci sono delle medicine amare da prendere. E in quel senso la Merkel ha detto facciamo la coalizione di ingoiare tutta la medicina amara perché ce la prescrive l'Europa. Va bene, allora Tobias, facciamo la scommessa di vedere se poi davvero gli sgravi fiscali si faranno, perché è vero che dovrebbe decidere il consumatore sull'auto, questo lo dico io, però la Germania voleva salvare la Opel col governo, non è che fino a questo momento questo abbiamo visto, speriamo che questo governo veda la differenza. Domanda breve per Adriana Cerretelli, ma non è che questo l'allargamento da est davvero che abbiamo fatto negli anni scorsi ci ha restituito poi un'Unione Europea ancora meno coesa e ancora più esposta a febbri come quelle dei paesi dell'est, come queste greche, con minori strumenti? Io non lo so, ho un bilancio un po' critico, la penso un po' diversamente di come la pensavo allora sull'allargamento dell'Unione Europea. Lei? Allora, io penso che il problema dell'Europa non è tanto il problema dell'allargamento a est. In un primo tempo io ci pensavo, ma poi riflettendoci bene, secondo me il problema dell'Europa è che al centro dell'Europa, il nocciolo duro dell'Europa, quello dei grandi paesi, non ha ancora risolto al proprio interno le contraddizioni di sempre sul modello di Europa che si vuole. Per cui avviene questo enorme paradosso per cui in tempi di globalizzazione, invece che accelerare come si dovrebbe, sulla strada dell'integrazione si vedono i nazionalismi e i protezionismi prendere il sopravvento, con una miopia che secondo me è incomprensibile, anche perché oggi il G20 si sta delineando come nuovo punto di riferimento della governance mondiale e l'Europa non può certo illudersi, presentandosi a ranghi sciolti, di poter incidere nel dialogo con paesi come la Cina o gli Stati Uniti o l'India e compagni. Ecco, allora, terminiamo su questo monito di Adriana sul fatto che continuiamo a illuderci un po' troppo, che mi sembra una buona sintesi. Ora io agli ascoltatori rinvio poi alle 12 in Salvatanaio con Deborah Rosciani, ci sarà un ulteriore approfondimento dell'allarme Grecia sul rischio di una nuova Argentina, perché gli italiani, siano essi enti pubblici o privati risparmiatori, che detengono titoli greci, e a loro dedicata questa trasmissione dalle 12 con Deborah Rosciani. Io ringrazio, oltre ai nostri ospiti in regia, Paolo Corleoni, Alessandro Marco Tulli, vi do appuntamento a lunedì, la linea al Giornale Radio.